capisce perché. Qui lo dicono che io per lavare la mela la persona la posso usare e per fare no, per fare il caffè no, per fare il cenò, e per fare i cenni, per fare i turisti, la posso usare, non va bene. Io mi sono incazzato, mi sono incazzato, perché mi hanno scritto no, non usate a scrivere nel campo, se mi ha perdonato dell'acqua per lavare gli ortaggi o l'apertura o la frutta, non succede nulla anche per lavare i piatti. Fate il discorso, io se ne davo un po' di chiama, ora sono cuidata che sono il pastore, non li vedo un rosso, però se metto un po' sotto, se c'è inquinamento mi credo, no? In effetti così, ma no, ma di fretta, visto. Ma secondo me lì c'è stato un po' di travello per alimentare molto di più la questione dell'inquinamento. Loro hanno chiuso lì, dice no, no, dice l'acqua l'abbiamo analizzata, adesso bisogna essere, in effetti è stata analizzata l'acqua, se no sono cavoli amari per loro. Io non ci credo, si saranno messi a disinfestare tranquillamente quello che può fare. Però loro hanno creato degli allarmismi, mandando quei fossacci, e la gente poi avrà detto io ero un grasso e la mia rea per questa roba e sicuramente le chiede dall'acqua. Hanno creato degli allarmismi e si saranno anche stati in tacchi, ma le qui quanto loro ricorrerà a qualche causa. A qualche causa perché non sapete niente così, e questi sintomi. Poi l'antenna è quella che domani partito, però almeno di ascoltare non in base alla tua scala, non penso la tua scala addirittura. E niente, qui sono le contatti di fare in due soldi, quindi in qualche positivo. Antonio, stavo dicendo, niente, non lo so, Capitano stavo dicendo che ti ascoltava quando era IBM, ti ascoltava bene, con la posizione dove sei tu adesso non ce la fa ascoltarti, vai, tutto quanto. Antonio, dimmi, intanto quello che ti ho detto. Che non finiva più, perché quando fa proprio una riduzione o una tradizione. tutto. Se lui non sa come dire che aveva la parete, io mi l'avevo lato, mi sarà finita. L'avevo lato, è della solita persona, è stata la quartiera, è stata presa quella rigatta, poi se lui è girato, sono molti i finali, e quindi, vedo che siamo passati in casa, l'abbiamo preso per Montesa, qualche volta così, adesso lo sto piacendo. Thank you. e si ha fatto contratto a 360.000 lire, ma il prezzo era fatto così proprio perché allora la 27 era fuori legge. Qualcuno la fosse per non far pistare anche in mano, l'avevano fatto questa volta a fuori legge e di cosa, e per non formarsi magari della 27 e qualche roba, diciamo, perché allora c'erano anche, stavo vedendo che alle cose di stato, quindi avevano dedicato in tempo, io penso che sia per quello, perché qui nel libro si è scritto, comunque io ho fatto di tutto lavorando, io non ero le scuole lì, ho fatto lavorato tutta l'estate, poi un po' di soldi a nome, un po' di soldi dopo, fino a tutta l'estate, mi dico, a farmi una piccola fortuna. E poi tutto questo persone invece che all'epoca ci avevano, loro dalla mattata lì, quando sono stati più in alto, per esempio qui a Napoli, c'era tutto il signore che ci aveva, adesso io mi sono passato, ma mi ha detto che non so, se è a tutta la fine di via Napoli. E aveva delle antenne, guarda, noi differenti, e devo dire che erano delle apparecchiature lì, e quella è sicuramente gente che ci aveva i studi, perché... prima che non soldi se non poteva permettere di comprare apparati, ma oggi sono cambiati i tempi, ma come possiamo tradurre anche oggi, non pensiamo che siamo meno cari. Ma io ci ho detto, guarda, poi non costava anche questo qui, perché se sto usando io, quello non costava 360.000 lire, e io sto parlando, poi che sia del 73, passavano, io ho cominciato a lavorare nel 74, ma facendo ore, arrivavo a 80.000 lire al mese. C'è qualcuno che vuole entrare sul canale 21? Chi è? Tu sei? Sì, KK. Ha detto che 2 già ti sente, però tu non senti a lui, capito? KK. No, io non lo sento a lui, no. Non lo copio per niente. KK. Infatti ho detto che c'hai problemi di QRM. Già fa il possibile, dai, per ascoltare anche a te. Stamattina l'ho sentito, stamattina. Stamattina è andato sulla tuta, capito? A Russi riceveva tutti a bomba, No, solo la mattina però lo sentivo. Allora, rientrando, secondo me era a casa sua. Negativo, si è spostato una BM, capito? È salito la Russi in una punta alta e riusciva a sentire tutti. Lì a piacere in cerebro. Ma non credo. Riprendi Caprino. Sì, riprendo qualche ma stamattina ho detto bravo, stamattina ho rilassato la vecchia sedia, ma guarda, sono rilassato una bellezza. Ho fatto una roba, ho dovuto fare una volta al mio figlio, ho detto, ma un volante con questa roba, i figli che non siamo a vedere, dell'antenna, che ho portato il volante, mi ho portato, e una zona come SQL, ma se ne va benissimo. Che mi arrivava più facile come mi diceva che non me l'ha guidato troppo al centro, questo a casa mi arriva basso e quindi sono di tutto, e allora riuscivi a superare di due campionati ovviamente, e quindi sentivo un certo tempo il tipo e cosa fai tu là? Io ho fatto lì a Russi e mi sono che mi prendo una casa in affitto perché lì si riesce a parlare anche con anche io devo ricapire un rapporto con Alghero e fare delle, voglio fare delle manifestazioni, invitare la gente dei paesi che anche i tecnici che vogliono di nuovo intraprendere la 27, perché non capisco che sarà gli apparecchi che li hanno magari, se stanno l'antenna, bene, non ci sono più, gli hanno fatto altre cose, non ci sono gli apparecchi morali. francese, il genovese e chi lo insulta, però credete che io so che c'è ancora la passione e che potrebbe riprendere, si potrebbe fare la 27 come lei dice, quindi io voglio che accada una roba del genere, sempre con gente illusata, perché ho sentito anche la scuola, perché gente che ha cambiato la roba, la cosa che stanno andando già con il binario, ripeti. Avanti che vuole entrare. Certo. Vediamo un po' se Capri 2 ascolta la Radio Vele. Ciao Radio Vele, buonasera, certo, volevo sentire questo. Se ho Radio 5, io non so come mi sto arrivando, lo sento stasera. Mi ha fatto cambiare il microfono perché dice che quello l'ha fatto arriva a poco, io ho adattato il mic originale dell'apparecchio. Io penso che tu non mi abbia indicato perché non vedo nessuna regolazione e lui che se prendava lo stesso. Spero che anche il sole stia ascoltando bene, Radio Pere, ti rimetto in cambio, alla buonasera sempre. Buonasera Capri 2, non so chi te l'abbia detto che l'altro era troppo appesticato. Thank you. adesso in lunghezza, tra me e Roberto ci sono altre 6 chilometri e quindi la voce spinge meno, lui la risente in cuffia e tutto quanto, ma noi qua in cuffia non ce ne mettiamo, se no arriviamo a 60 anni che tocca mettere l'apparecchio. Yeah. per salutarli, vai. Guarretti da parte mia. Ci va, riascoltiamo un po' le prossime. Ciao Pierpaolo, tutte le prossime. Ciao anche a te, e ci va, riascoltiamo le migliori. Ciao, ciao, buona notte a tutti. La posizione è zona Stasera verso le 5 le 6 parlavo con lui, Allora diciamo, era che ti sentono pazzi loro. Sacro cuore. Ah, è sacro cuore, ho capito. Io qua al monte, alto, molto alto. Buono, buono. Hai ricevuto dei buoni? Come? Lì c'è tra i mitenti? Lì c'è tra i mitenti? Avevo un baracchino fisso, grande. Quello lo capisco. Tu sei già portatile? È vitale, sì. Ok, yeah. Beh, ma non lo senti? Sì, qua lo sento, qua insomma lo sento. Che sei? Meglio. Paragricola, ciao Antonio, a te. Vai, Paragricola. Dai, dimmi, dimmi. Che ti dice? Come Paragricola, buonasera a tutti. Antonio, senti gli altri amici, dai, doppio room. Ciao, buonasera, ciao, il doppio room. Non so se ascoltate il Capri 2. Avanti Capri 2, se senti, a già il doppio room e l'altro rito, dai. Capri 2, ben sentito, se mi ascolti, dai. Io intanto sono Natalino e paramobile. Mi sto ascoltando, già, però oscillante, diciamo, per appena la valchetta, proprio sento una negativa per me. Io, guarda, ti rimetto il cane e vediamo se non mi ascolta. Qualcuno ascolta? Ah, in realtà, sono in più. Antena 1 che sta sempre, sembra un modulato, non se ne comprende nulla. Corretto, Antena 1 che stanno parlando gli altri, io lo dico. Avanti Antena 1, ti ascoltiamo, dai. Avanti Antena 1, sono io. Sentite, quello con la roba mia, la parecchia. La parecchia è una roba tua? Non problem, non è così. Luca, da Birba, quali sono 9 e 10? Ecco, l'ho detto. Non è col passo a comprare l'apparecchio. No, sta parlando un po' per i fatti sui, sta parlando la samba. Come devo pensare il motore bene? Quello è male il servizio? Importante, e poi basta. Dimmi antenna 1, dimmi. Sì, antenna 1. Ma? Perché? Che a casa, a casa? Sono... Dove abiti? Viaggi. Viaggi? Viaggi. Ah, sei in camion. Taxi. Taxi. No, vabbè, ma stai lavorando, lavorando. Io, parla con Pierpaolo, Pierpaolo mica c'è antenna 1. C'è. Antenna 1. Non sento. Sera, alle volte arrivavo e poi non so se ci ho alle 1.000